Euroreportage. L'Europa che verrà. Barcellona sogna il Porto Franco, di Sergio Nava. Buongiorno da Barcellona, dove ci troviamo? Ci troviamo a Plaça Catalunya in una giornata coperta con parecchia pioggia, un clima decisamente poco primaverile qui nella capitale catalana, per raccontarvi oggi un nuovo capitolo all'interno dell'inchiesta di Radio 24 sull'indipendentismo catalano. La domanda a cui cercheremo di rispondere è: può una regione catalana indipendente essere economicamente sostenibile? Questa è la domanda a cui proveremo a dare una risposta. Soprattutto cercheremo di capire se l'indipendenza catalana potrebbe avere un senso economico all'interno o all'esterno dell'Europa, perché questo, come vedremo, è il vero punto fondamentale che imprenditori, analisti e investitori stanno cercando di capire. Cercheremo insomma di comprendere come i nuovi confini geografici europei potranno avere anche un senso economico. Restate con noi, vi porteremo nel cuore di Barcellona. Io credo che sì, che è viabile. È viabile e in certo modo i numeri sopra il papel aguantano. Ramon Emeric è caporedattore economico del giornale L'Avanguardia, il più importante quotidiano catalano, voce storica della borghesia di Barcellona. Io penso che sia economicamente possibile una secessione catalana dalla Spagna. Non so se al contrario sia possibile una Spagna senza la Catalunya. Il problema è più di tipo politico e tocca anche i costi derivanti dalla ipotetica transizione, dice. La Spagna, afferma Emeric, non ha alcuna voglia di cedere a patti in questo senso e questo complica tutto. In secondo luogo, un'indipendenza è costosa. L'economia catalana è storicamente aperta, orientata all'estero. Già da 2 anni vendiamo più prodotti fuori dalla Spagna che nel mercato iberico. Un altro problema riguarda la crisi. È vero che il movimento separatista ne ha fatto una cassa di risonanza, ma la verità è che la crisi rende più complicata l'indipendenza. Una Catalunya indipendente oggi non avrebbe probabilmente accesso ai mercati finanziari con il debito di 40 miliardi che la regione porta sulle spalle. E un'indipendenza senza intesa con la Spagna ci farebbe passare una decade di piombo, un vero e proprio inverno. Ora però siamo concreti. La Catalunya porta il 20% del PIL spagnolo, il 26% delle esportazioni e degli introiti fiscali. È quindi nell'interesse di entrambe le parti scendere a patti, trattando o sull'indipendenza o su un'altra forma di convivenza all'interno dello Stato attuale. C'è anche il tema Europa. Non penso che l'economia tedesca, le multinazionali tedesche, così presenti a Barcellona, resteranno indifferenti alla situazione, puntualizza Emeric. Ne le vedo in prospettiva in fuga dalla Catalunya. Le vedrei piuttosto esercitare pressioni a Berlino affinché Barcellona resti quantomeno nell'euro in caso di indipendenza. Infine, Emeric tocca l'annoso tema della bilancia fiscale Catalunya-Spagna. Io penso che il deficit fiscale qui sia molto superiore alla media dei lender tedeschi. Parliamo di una forchetta di 8-14 miliardi di euro che vanno a Madrid e non tornano più a Barcellona. La franja sta entre los más. De champansa, com tu puc dir, de champansa. Le sfide economiche dell'Unione Europea, sostenibilità della Catalunya come Stato. Questo è il titolo di un rapporto che ha fatto molto discutere nell'ultimo anno. Coautrice, insieme a Marta Espasa, è Núria Bosch, docente dell'Istituto d'Economia da Barcellona. A spiegarci le conclusioni dello studio la stessa Bosch che siamo andati a trovare in Ateneo, nella zona nord della capitale catalana. Sì, è possibile nel senso che... Una Catalunya indipendente sarebbe possibile, ci spiega. Avrebbe risorse sufficienti per finanziare le spese proprie di una nazione indipendente. Attualmente la Catalunya contribuisce alla solidarietà col resto della Spagna in una quantità molto elevata, per questo ha un deficit fiscale molto alto. Le stime indicano un deficit pari all'8% del PIL catalano, 16 miliardi 2250 euro per cittadino ogni anno. Parliamo della differenza tra quanto versiamo a Madrid in termini di imposte e quanto riceviamo in termini di spesa pubblica, afferma Núria Bosch, correggendo a rialzo le stime di Emeric. La Bosch non vede, al contrario del giornalista, rischi per le casse pubbliche di un ipotetico Stato catalano. Secondo il nostro studio, la spesa per i nuovi settori di competenza statale sarebbe pari a 3 miliardi, il che ci lascia ancora un margine di 13 miliardi se guardiamo all'attuale deficit con la Spagna. Nuria Bosca non ha dubbi sulla validità della sua tesi anche in tempi di profonda crisi. Credo che economicamente una Catalunya indipendente sarebbe conveniente anche ora, perché appartenere allo Stato spagnolo in questa epoca non porta benefici. Madrid non ci sta sussidiando, al contrario. Infine Nuria Bosca, le cui conclusioni non sono affatto piaciute, come potete capire, a Madrid, non si dice affatto preoccupata dagli effetti economici nei confronti dell'Europa di una possibile indipendenza catalana. È molto difficile che Barcellona resti fuori dall'Unione Europea. L'integrazione della nostra economia con l'Europa è così forte che un'uscita catalana avrebbe conseguenze negative per numerose multinazionali, afferma. Buongiorno dalla Via Laietana di Barcellona, un'arteria che taglia letteralmente in due la città e che da Plaza Urquinaona arriva fino al mare, una delle vie più suggestive della città. Via che porta al mare, via che porta al commercio, e proprio qui a poche centinaia di metri ci sono sia i sindacati sia la Confindustria catalana, il Foment del Treball, che rappresenta la grande impresa catalana. Allora andiamo, partendo proprio dagli imprenditori, a capire come una possibile indipendenza catalana potrebbe avere conseguenze su impresa e lavoratori. La crisi economica ha tenuto un impatto forte all'economia catalana e spagnola e lo che sta a la zona del sur. Salvador Guillermo è capo economista dell'Unione degli Imprenditori Catalani. Il Foment del Treball riunisce le grandi imprese, più fredde rispetto alle PMI, rispetto all'ipotesi di un'indipendenza vera e propria dalla Spagna. La crisi ha avuto un forte impatto sull'economia catalana. Abbiamo un tasso di disoccupazione pari al 24%, la situazione economica è pregiudicata dai processi di aggiustamento che ha dovuto sperimentare il settore pubblico. Il settore dell'export funziona abbastanza bene, anche se negli ultimi mesi si è verificato un rallentamento, afferma Guillermo, che inquadra così la situazione economica. La Catalunya è multisettoriale, c'è un nocciolo duro del settore industriale costituito da chimica, auto, alimentare e servizi, quali il turismo. Al momento contribuiamo al 18,8% del PIL spagnolo. Sulla questione indipendentista Guillermo è cauto. Si tratta di un tema politico. La Casa degli Industriali Catalani raggruppa ogni tipo di sensibilità. Noi non ci posizioniamo in alcun modo. Guillermo intravede però punti di domanda. Una Catalunya indipendente resterà nell'Unione Europea? Quando pensiamo che attualmente destiniamo il 60% delle nostre esportazioni all'Europa, lei capisce che non è la stessa cosa essere soci del club oppure no? Beh, fa la differenza. Solo alla fine Guillermo scopre le carte, riferendosi all'ultima proposta del presidente dell'Associazione degli Industriali. L'opzione considerata con più favore è quella di una revisione del modello di finanziamento regionale. Occorre cercare insomma un compromesso tra Madrid e Barcellona. Vamo a pensare in aquello che nos puede unir. La prima questione è constatar che nosotros somos un sindicato. Dolors Llobet, portavoce di Comissione Sobrera da Catalunya, il principale sindacato, non ha invece dubbi. Siamo un sindacato che già nel nome portiamo Catalunya. Siamo sindacati catalani confederati con quelli spagnoli. Il nostro ultimo congresso ha approvato una risoluzione sul diritto all'autodeterminazione. La nostra posizione è stata votata dal 97% dei partecipanti. In questa risoluzione ci diciamo a favore del diritto a decidere da parte dei cittadini. La Llobet aggiunge: il diritto all'autodeterminazione è riconosciuto fin dal nostro statuto, lo riteniamo un passo in avanti nel processo democratico. E qualsiasi decisione su una possibile indipendenza avrà riflessi economici, soprattutto per le imprese, obiettiamo. Siete preoccupati? La grande impresa è preoccupata, ne siamo cosciente, risponde la Llobet. Noi però diciamo che siamo un sindacato che difende i lavoratori catalani, un sindacato con vocazione internazionale. Dal punto di vista dei lavoratori non cambia molto, anche se dovessimo arrivare a una Catalunya indipendente. Noi ci limitiamo a difendere i lavoratori, tutti i lavoratori, risponde un po' evasiva. Ricorda però i drammatici dati della crisi. In termini di disoccupazione abbiamo oltre 900.000 disoccupati, di cui il 55% giovani. Il livello della povertà sta crescendo in modo allarmante. La situazione è di emergenza. Non c'è lavoro, non c'è attività economica. Un ultimo pensiero va alla relazione con l'Europa. La conseguenza della dichiarazione di indipendenza quasi unilaterale della Catalunya avrebbe come conseguenza l'uscita dall'Unione Europea e dall'euro. Economicamente sarebbe negativo. L'altra questione è se si può evitare un'indipendenza unilaterale. Se fosse concordata con la Spagna, l'evoluzione sarebbe certamente diversa. La permanenza in Europa è necessaria, uscire non sarebbe una buona soluzione, concorda la Juve. In questi momenti non crediamo che fosse una buona soluzione. Prossima stazione. Si calcolano circa 40.000 italiani residenti a Barcellona. Nella scorsa decade la capitale catalana ha visto arrivare migliaia di giovani connazionali in cerca di quello che all'epoca era considerato l'Eldorado d'Europa. Ora, quegli stessi flussi si sono spostati verso Berlino o verso Londra, ma c'è chi resta e investe economicamente. È il caso di Fabio Pitrola, imprenditore nel settore turistico da 6 anni in Catalogna. Ha appena aperto un sito, Tab Cholet, con un piccolo spazio nel cuore del Born, pieno centro storico, dove noleggia ai turisti tablet contenenti guide turistiche interattive. Il turismo è una delle principali industrie della città. Fabio, che incontriamo nel suo negozio con i lavori ancora in corso, non è affatto preoccupato dai riflessi economici di una possibile indipendenza, anche se c'è un ma. Cambierà molto poco, perché alla fine il turista viene qui per le bellezze di Barcellona, il mare, l'architettura. Al massimo, secondo me, qualcosa che cambierà è sulla qualità del turismo, nel senso che ancora molta gente viene qua cercando il flamenco, il toro e quello che è tipicamente spagnolo. Cosa in Catalogna c'è molta differenza con la Spagna. Questo, la Catalogna non è Spagna. L'ultima tappa, ancora all'interno della nostra comunità, ci porta alla Camera di Commercio Italiana a Barcellona. Emanuela Carminati, presidente della Camera, fotografa i maggiori nodi di interscambio commerciale tra Catalogna e Italia e rivela, su questo state bene attenti, alcune nostre aziende stanno già cominciando a redigere studi di fattibilità sulla convenienza di restare o andare via nel caso di indipendenza. Insomma, la questione catalana, questa la conclusione della nostra inchiesta, non sarà affatto una questione solo interna alla Spagna. Meglio prepararsi. L'Italia ha un grande punto di appoggio nella Catalogna in questo momento. Parlando del processo chiamato sovranista, cioè di possibile indipendenza della Catalogna, dal vostro osservatorio quali riflessi potrebbe tenere nelle relazioni con l'estero, anche con l'Italia ad esempio? È assolutamente sterile come dibattito in questo momento se non va accompagnato dalle misure fiscali, le misure che poi concrete che si possano adottare. Può essere un successo, può essere un fracasso, e al di là di questo poi dipendere anche dalle preferenze di tutte le aziende, per fare un'idea. Però voi che vi interfacciate con le aziende italiane, le vedete preoccupate da questo processo? Le vedete magari disinteressate, non lo considerano al momento? Non è un tema nel quale uno possa essere indifferente. Sarebbe irresponsabile essere indifferenti e dire quello non mi preoccupa, quindi evidentemente bisogna mettere un occhio e analizzare e studiare. Ovviamente ci sono delle ditte che particolarmente stanno facendo loro studi economici per valutare o valutare nel loro caso concreto cosa gli può convenire di più, però torno a dire, effettivamente anche loro si trovano poi frenate, perché per valutare devono sapere in che condizioni questo si potrebbe fare. Globalmente non sembra che ci sia una grande preoccupazione al di là del fatto in sé. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.